Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Alla cronaca meteo di questo strano inverno 2014, insolitamente caldo e straordinariamente piovoso, si sono aggiunte ultimamente anche alcune nevicate record. E allora che abbiamo visto comparire le tute rosse e gialle del soccorso alpino, le quali, pala in mano, hanno messo in sicurezza i tetti di case e soprattutto scuole in pericolo a causa del peso della neve. Una faticaccia, ma niente in confronto, per esempio, alle operazioni di ricerca, quando ci sono dei dispersi, magari sepolti sotto una valanga. Incidenti che segnano ogni stagione turistica e forse il cambiamento climatico non migliorerà le cose. Ebbene, oggi il soccorso alpino sta puntando molto sulla tecnologia per rendere un po' più rapide, insomma, ed efficaci le operazioni di soccorso. Parliamo di un'app, si chiama GeoRescue, un'app per rendere più sicure le attività sportive in montagna. Ci spiega tutto Alessandro Molinu, referente del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico proprio per questo progetto. Buonasera Molinu. Buonasera, sì, salve. Senta, mettiamo subito in chiaro le cose, è un servizio a pagamento, costa 20 euro l'anno l'abbonamento, questi 20 euro servono, diciamo, a coprire i costi che il soccorso alpino sostiene per gestire questo servizio. Ricordo anche che l'applicazione è stata sviluppata praticamente per tutti i sistemi operativi. E adesso Molinu ci spieghi di che cosa si tratta. Ci sono tre funzioni principali, partiamo subito dalla prima. Sì, il sistema è molto semplice, essenziale e di pratico utilizzo. Prevede appunto tre funzioni che sono la posizione, l'allarme e la funzione tracciami. La posizione consente di visualizzare le coordinate geografiche e soprattutto è una funzione che consente di effettuare in continuo, quando si ha necessità, il test sulle funzionalità del telefono. Poi abbiamo la funzione allarme. E qui cominciamo ad arrivare al succo. Siamo diciamo proprio al cuore del sistema. È una funzione che consente all'utente di inviare un allarme geolocalizzato che viene poi ricevuto dalla centrale dedicata. Quindi è quella funzione che consente di essere localizzati con una precisione che ormai e di qualche metro, 5 metri, sì, esatto, sì, molto molto precisa, più che sufficiente insomma per consentire alla squadra di raggiungere. E poi l'altra funzione, la funzione tracciami, che è un ulteriore valore aggiunto, perché al di là diciamo di quello che può essere un utilizzo ludico per una persona che frequenta la montagna, quindi che vuole rivedere il suo percorso, no? Però è importante perché quando uno lancia l'allarme vuol dire che è cosciente, in grado di usare le mani, per esempio. A volte gli incidenti generosi, no? Esatto, purtroppo ci sono quelle situazioni in cui per un motivo o per l'altro, quando arrivano i problemi, si possono perdere i sensi. Non sei in grado di comandare magari il dispositivo. Ecco, a questo punto si vede esattamente il percorso che ha fatto una persona e si può capire più o meno dove si può trovare. Quindi nel caso di un mancato rientro, la centrale può andare a verificare quel percorso lì e diventa praticamente quel filo d'Arianna in grado di condurre sul posto i soccorritori, certo, anche se non c'è stata la possibilità di contattare. Ecco, perché come gestite l'emergenza quando si verifica? Non è che l'app è solo un programma informatico, c'è dietro una centrale operativa. Infatti noi parliamo di sistema GeoRescue, non semplicemente di app. Dietro c'è una centrale operativa dedicata, un operatore che a monitor riceve immediatamente l'allarme, verifica i dati della localizzazione, quindi la posizione, la zona, effettua immediatamente il contatto con l'utente ed inoltre immediatamente quella chiamata a chi di dovere, il soccorso alpino se stiamo parlando di un intervento in montagna, piuttosto che il 118, piuttosto che altri enti se si tratta di una situazione diversa diciamo da un soccorso sanitario. Ecco. Ecco, senta, spesso però in questi luoghi impervi, diciamo in mezzo alla natura, non si riesce per esempio a telefonare o mandare un SMS. Questo sistema funziona lo stesso? Allora, questo sistema necessita appunto della connessione dati, però quello che abbiamo proprio potuto testare durante i mesi di sperimentazione dell'anno scorso è questo, che la connessione dati e la trasmissione di questi pacchetti dati sulla posizione necessitano veramente di pochissimo segnale. Abbiamo avuto delle situazioni dove non era possibile il contatto telefonico con la persona, non si riusciva a inviare degli SMS e i dati di posizionamento invece affluivano, perché basta che si liberi per un attimo una piccola banda e lì lo smartphone scarica tutti i dati storici che ha accumulato. In pochi secondi, quanti sono gli utenti attualmente di questo servizio? E se ci sono già stati casi pratici? Allora, abbiamo circa 5.000 iscritti al portale, 1.500 hanno già attivato il servizio. Casi pratici, abbiamo avuto già tre allarmi, l'ultimo sul Gran Sasso in Abruzzo, dove uno sci alpinista appunto ha inviato l'allarme dopo una scivolata e una caduta nella buca di 4 metri e in quel caso addirittura aveva avviato il tracciami durante l'escursione, quindi se anche avesse malauguratamente perso i sensi saremmo stati in grado di ritrovarlo con estrema precisione. Insomma. Grazie Alessandro Molinu e avanti così. Prego, ci proviamo. We'll be right back.